24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano oggi il mancato rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE che li ha tenuti invariati. Intanto il governo portoghese ha approvato il piano di aiuti negoziato con l'Unione Europea. In Italia via libera del governo al decreto sullo sviluppo con interventi che rispondono alle nuove regole comunitarie sul coordinamento delle politiche economiche. Infine per lo sport l'Europa si prepara a un weekend di calcio stellare nelle competizioni nazionali. Based on its regular economic and monetary analysis, the Governing Council decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Così il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet ha annunciato la decisione di lasciare invariato all'1,25% il tasso di riferimento principale in Eurolandia. L'attuale posizione di politica monetaria della Banca Centrale continua ad essere accomodante, ha spiegato. La BCE continuerà a monitorare molto attentamente gli sviluppi dell'inflazione, ha aggiunto Trichet, ribadendo che vi sono rischi a rialzo per la stabilità dei prezzi, soprattutto per i rincari energetici. Tuttavia il numero uno della BCE ha escluso elementi che facciano presagire altri rialzi dei tassi a breve. Il governo portoghese ha approvato il piano di aiuti negoziato con Unione Europea ed FMI, lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Fernando Teixeira dos Santos. Il leader del principale partito di opposizione portoghese, il PSD, Pedro Passos Coelho, si è impegnato ad applicare l'accordo raggiunto con Europa ed FMI sul piano di salvataggio da 78 miliardi nel caso vincesse le elezioni politiche del 5 giugno, riferisce la stampa di Lisbona. Per attuare il programma di austerity, grazie al quale il Portogallo riceverà gli aiuti da Unione ed FMI, serve davvero uno sforzo nazionale. È quanto affermano in una nota congiunta il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn e il direttore generale del fondo Dominique Strauss-Kahn. Via libera in Italia intanto al decreto sullo sviluppo. Tre i provvedimenti economici approvati, ha spiegato il ministro Giulio Tremonti, che li ha contestualizzati all'interno del nuovo semestre di coordinamento delle politiche economiche europee. Sentiamo. Oggi abbiamo fatto tre cose importanti. Il CIPE, che contiene l'autorizzazione e lo sblocco per molte opere, ma anche lo sblocco finale del fondo per il cosiddetto social housing. Credo che sia uno strumento che accumula efficacia e forza in progressione. Abbiamo cominciato con le fondazioni ex bancarie a Parma, proseguiremo a Napoli, a Rieti, è uno strumento molto importante per l'edilizia sociale. Secondo, il testo unico dell'apprendistato. Terzo, il decreto legge di cui abbiamo parlato. È il primo di una serie di decreti legge che presenteremo nella logica europea del semestre per lo sviluppo. Il premier Silvio Berlusconi anticipa che l'Italia presenterà questo decreto in Europa. Avendo ottenuto il risultato dei conti pubblici in ordine, che ha dato merito a tutti i ministri, ma al ministro Tremonti in particolare, che anche a costo di apparire sempre come il cattivo del governo, essendosi dovuto calare in questo ruolo di dire sempre no alle richieste di tutti i suoi colleghi, e lo capisco che è un ruolo non facile, lo ringrazio e lo ringraziamo per questo, abbiamo tutti insieme messo a punto questo decreto per lo sviluppo. È il primo decreto, il primo provvedimento che va nella logica europea. Noi questo decreto lo presenteremo in Europa, ma non alla Commissione europea, ma agli altri paesi europei che presenteranno a noi i loro provvedimenti. Si articola in 10 punti, sono 10 articoli, che devono, secondo quanto noi pensiamo, essere da altrettanti motori di sviluppo, ricordo ancora, senza spesa pubblica. E ora la borsa, giornata negativa per Milano. Seduta negativa per le borse europee che pagano le trimestrali sotto le attese dell'inglese Lloyd's e della francese Société Générale. Due bilanci che, dopo quello positivo diffuso l'altro ieri da BNP Paribas, sono state due autentiche docce fredde per i mercati, non certo confortati dal parziale rallentamento alla stretta monetaria annunciato oggi dalla Banca Centrale Europea. Così ieri a Milano il FTSE MIB ha perso lo 0,8% e lo share lo 0,77%. Parigi Parigi ha ceduto lo 0,95%, Londra oltre un punto percentuale, mentre Francoforte ha chiuso praticamente pari. Dicevamo le banche, a Piazza Affari Intesa San Paolo e Unicredit hanno lasciato sul parterre l'1,7%, Popolare di Milano l'1,6% e il Banco Popolare l'1,4%. In controtendenza Pirelli più 1,5% grazie ai conti trimestrali con utili praticamente raddoppiati rispetto all'anno scorso e alle promozioni decretate dagli analisti. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'OPA di Lactalis su Parmalat, con cui il gruppo francese intende acquisire il 71% del gruppo di Collecchio, è stata notificata alla Commissione europea. Ora i servizi del commissario alla concorrenza Joachim Almunia hanno 25 giorni lavorativi di tempo per decidere se dare il via libera all'operazione o aprire un'inchiesta approfondita. Il verdetto è atteso entro il 14 giugno. E la Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo ha condannato l'Italia per non aver recuperato completamente gli aiuti ritenuti illegittimi concessi sotto forma di incentivi fiscali a imprese partecipanti a esposizioni all'estero. E in Europa il segretario di Stato americano Hillary Clinton, dopo il blitz che ha portato all'uccisione di Osama Bin Laden, a Roma si è riunito il gruppo di contatto sulla Libia. «Sono stati i 38 minuti più intensi della mia vita», così ha definito la Clinton le immagini che probabilmente il mondo non vedrà mai. Il segretario di Stato americano ha incontrato il ministro degli esteri italiano Franco Frattini. Vincenzo Miletta. Buongiorno, le parole dunque della Clinton in conferenza stampa con il ministro degli esteri Frattini, conferenza che non poteva non partire da Bin Laden, e qui, come avete anticipato da studio, la confessione della Clinton: sono stati i minuti più intensi della mia vita in un blitz aggiunto professionale senza errori. Quindi la riflessione del segretario di Stato sulla lotta al terrorismo, la battaglia non finisce con una morte, ma di certo l'uccisione di Bin Laden è stato un messaggio inequivocabile della ferma determinazione della comunità internazionale di opporsi al terrorismo. Il capitolo Libia, poi, Ricchi Frattini, ha ribadito l'impegno del nostro paese per arrivare a compimento della missione, ha rimarcato la necessità di una soluzione politica ed ha annunciato un fondo speciale per aiutare gli insorti. Ma il segretario di Stato USA e Frattini hanno parlato anche di Siria e del Medio Oriente. Sentiamo su questo Frattini. Abbiamo parlato a lungo dello scenario medio orientale, della situazione in Siria e l'opinione su cui concordiamo è che debbano moltiplicarsi le azioni politiche, gli appelli per sensibilizzare il governo siriano a cessare immediatamente le violenze. Sulla Siria, quindi, il ragionamento di Frattini: serve più pressione per bloccare le violenze. Un monito all'Europa a margine di un convegno a Bologna è intanto arrivato da Romano Prodi, ex presidente della Commissione europea. Noi abbiamo dimenticato l'Egitto, abbiamo dimenticato la Tunisia, non ci siamo concentrati, come succede sempre, sull'ultima notizia del giornale della Libia. Ma attenzione, in Egitto ci sono 80 milioni di persone e l'economia egiziana è in sfascio e noi facciamo le prediche sulla libertà, sulla democrazia e non aiutiamo la libertà e la democrazia. Mi auguro che almeno adesso, almeno nel medio periodo, questa vittoria contro Bin Laden dia un orizzonte in cui si trasferiscono risorse e fondi dalla guerra verso la pace. A Napoli un maxi sequestro di beni al clan Polverino, 1 miliardo di euro il valore, un vero e proprio tesoro del clan che controlla attività imprenditoriali e commerciali anche a Barcellona, Alicante e Malaga nella Spagna meridionale. I Polverino avevano il monopolio della produzione e distribuzione di prodotti alimentari in numerose zone della provincia di Napoli, in particolare di farina e pane. Il procuratore aggiunto della direzione distrettuale di Napoli, Alessandro Pennasilico, intervistato da Raffaella Calandro. Nasce da un'attività che i personaggi legati al clan già operavano da tempo antico. Si tratta di persone che in origine gestiva dei panifici e anche delle macellerie. Quando il clan cresce, fa fruttare anche questo ramo, crescono, dicevo, insieme a tutte le altre attività, anche quelle riferibili alla vendita di alimentari, che era tanto caratterizzata dalla produzione quanto dalla imposizione alle altre panetterie dei propri prodotti. Quindi vuol dire che l'intera filiera era controllata, ecco, da quale clan parliamo? Parliamo del clan Polverino. Lo strumento, diciamo, prediletto di questi clan è penetrare la filiera alimentare in questo caso, ma economica in genere, attraverso il meccanismo delle estorsioni o quello dell'usura. In chiusura lo sport, quello che sta per iniziare è un fine settimana di spettacolo ed emozioni per il calcio europeo. Sentiamo. Londra, Barcellona, Roma. Chiamatelo il triangolo dello scudetto, perché tra sabato e domenica saranno queste le capitali del calcio europeo. Si parte da Roma col Milan che domani sera va a caccia contro i giallorossi di Capitan Totti del pareggio che gli regalerebbe il tricolore con due turni d'anticipo. All'Olimpico attesi 10.000 tifosi rossoneri. Poi domenica Super Sunday in Premier League. All'Old Trafford scontro al vertice tra il Manchester United di Sir Alex Ferguson e il Chelsea di Carletto Ancelotti, che insegue i Diavoli Rossi in classifica ad appena 3 punti. Se i Blues dovessero vincere, riaprirebbero la corsa al titolo e vendicherebbero l'eliminazione subita in Champions. Domenica poi potrebbe essere festa per il Barcellona. Nel derby con l'Espagnola e Blaugrana basterà un pari per trionfare nella Liga, purché il Real non vinca a Siviglia domani sera. Poi sarà finale di Champions il 28 maggio a Londra tra il Barcellona e il Manchester United, come 2 anni fa a Roma. Insomma, Londra, Barcellona, Roma. Ve lo avevamo detto, no? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per gli appuntamenti di oggi vi segnaliamo la riunione congiunta Europa-NATO sulla Libia, l'inizio del Festival dell'Europa a Firenze, che si protrarrà fino a lunedì, e la missione degli osservatori dell'Europarlamento a Tirana per le elezioni albanesi. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.